Coxo spaziale. Vediamo che cosa ne viene fuori. E intanto grazie Bianca, grazie Tony, grazie Nicola e grazie a tutti gli artisti di autoprogettazione. Se vuoi ricordarci come possono i nostri ascoltatori andare a saperne di più e noi ti salutiamo. Esatto, noi continueremo a cercare di rompere gli argini anche attraverso autoprogettazione, che sta continuando a crescere. Infatti abbiamo lanciato da 2 settimane un takeover dove affidiamo il nostro profilo Instagram, che è autoprogettazione, facilissimo da ricordare, ad uno dei nostri artisti. Quindi affidiamo totalmente il profilo e loro si cimentano non solo nella presentazione dei propri progetti, ma anche nella realizzazione dei progetti altrui e ad una più profonda interazione con il pubblico. Quindi vediamo come andrà questo takeover. Noi per ora siamo molto soddisfatti anche di questo nuovo sviluppo. Ci trovate sul web come www.autoprogettazione.com, lì potete vedere tutti i progetti, tutte le istruzioni. Abbiamo anche una pagina Instagram che vi ho appena citato, Facebook e Twitter, sempre con il nome di autoprogettazione, quindi ci potete trovare tutti facilmente. Poi trovate anche il nostro indirizzo mail se ci voleste scrivere o mandare delle realizzazioni, delle istruzioni. Quindi grazie ancora Chiara, Stefano e Fedra, e grazie a tutti gli ascoltatori. Vi auguro un buonissimo proseguimento e di riprogettare le vostre esistenze attraverso l'arte. Ciao! Beh, prima che il nostro ascoltatore esigente, assieme agli 0,73 ascoltatori attenti, ci prendano per dei talebani del Campardaria, vorrei ricordare che Giancarlo Norese ha detto anche che l'opera d'arte perfetta è quella che non solo si autoproduce, ma anche si autovende. Poi basta parlare di Norese, perché sennò diventa noioso, anche se non è colpa nostra se dice delle cose interessanti. No, non è assolutamente colpa nostra se Norese dice sempre cose interessanti. Infatti ci auguriamo di riuscire a riaverlo in trasmissione in studio, perché naturalmente grazie a questo Covid è ancora impossibile avere ospiti. Non che oggi avremmo potuto averli, visto che io sono in spiaggia, tu sei in spiaggia e Giffo chissà dove sarà. E nel frattempo questa musica di sottofondo che state sentendo, anzi adesso ve la faccio sentire per un po' assieme al mare. Questa musica di sottofondo è il secondo singolo di Daniela Mastrandrea, che si intitola Sulla via del ritorno. E c'è una grande visione nella mia mente, scrive Daniela, e questo singolo arriva dall'album Mondi Paralleli. Dicevo, c'è una grande visione nella mia mente, la stessa che mi guida a compiere in maniera certa e definita ogni passo. Non posso prevedere il futuro, ma di sicuro posso crearlo. Come? Con le azioni che sono frutto dei pensieri. Pensare in grande è importante e sapere ciò che si vuole è il motore che mette in atto i pensieri. Mondi paralleli rappresenta il passo successivo di un disegno preciso e perfetto che ho nella mia mente. Una naturale conseguenza ed evoluzione del mio percorso di vita e di musica. Beata te, Daniela, che riesci a avere un disegno preciso e perfetto nella tua mente. E qui a Coxo Spaziale il nostro disegno è abbastanza bislacco e sicuramente piuttosto imperfetto. Ma andiamo avanti con le registrazioni che ci ha spedito la nostra cara K. sono riuscita a trovare una persona che ha visto la performance Yumi Transformer Cambiare la vita, Life Changing Program 2020-2021, che Yumi Karasumaru ha fatto mercoledì 24 e giovedì 25 davanti alla Galleria dei Foscherari. Una performance, leggo dal comunicato stampa, che Yumi ha ideato per contribuire a rafforzare l'energia sia mentale che fisica di coloro che sono stati costretti al confinamento. Noi non siamo riusciti ad andare, ma il giorno dopo io ho incontrato Alessandra Frisan, artista pure lei, e le ho fatto qualche domanda. Siccome tra l'altro leggevo sempre sul comunicato che la performance consisteva nel mettere in scena due situazioni, vecchietta che cuce a mano e casalinga che sbuccia le patate e le carote, mi sono domandata se questi non dovessero essere presi come degli stereotipi delle attività femminili. E Alessandra mi ha risposto con un racconto molto interessante. Vi lascio alla sua dente cadenza veneta delle sue parole. È stato molto piacevole l'impatto, perché arrivare nella via Castiglione con le macchine che passano, poi molto stretta, e trovarti all'improvviso con la musica orientale, esotica, e l'artista che ricamava con pazienza in calzini giapponesi e tutta china su se stessa, con questa... c'è stato questo impatto esotico molto molto sorprendente, ed era bello vedere la reazione della gente che non conosceva la galleria, non capiva cosa ci stesse accadendo, perché non collegavano con la galleria. No, cioè i passanti chiaramente, dopo aver fatto una via tutta shopping di via Rizzoli, trovarsi davanti a questa evento per strada, un po' per strada tra la galleria e la strada, era curioso vedere gli sguardi, però non osavano avvicinarsi, non capivano, per cui non sapevano se entrare a far parte o meno. Quando mio padre ha fatto il militare, per cui è nato nel 38, 20 anni nel 50 più o meno, c'erano tantissimi militari che per riposarsi e per rilassarsi al rientro della giornata lavoravano punto croce per avere un lavoro di pazienza e ristrazione, sì. Ti mando questa hit giapponese di Yoko Kanno in onore di Yumi Karasumaru. Chissà se Yumi apprezza Yoko Kanno. Don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind, don't you lose your mind Volevo anche dirvi che il pezzo che avete sentito prima si intitolava Drama ed è il nuovo singolo di questo artista giamaicano che sta di base negli UK, che si chiama The Rara. The Rara era nel 2018 era arrivato nella scena dance con un singolo chiamato Elegance, che poi dopo era stato remixato da Cranium and Hale. Drama è stato prodotto in Svizzera da Riga e Empire Production ed è la prima collaborazione di questi due team. Corso spaziale. E questa settimana non possiamo non menzionare che il 26 giugno è morto Milton Glaser, probabilmente il più grande designer del secolo scorso, che fra l'altro aveva passato anche del tempo a Bologna. Negli anni 50 era stato all'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove, se non erro, aveva conosciuto Maurizio Osti, che poi negli anni 80 l'aveva invitato a fare una lecture a cui ho anche assistito. Milton Glaser è il designer che ha inventato il logo I Love New York, che è naturalmente è stato ripreso da chiunque, e appunto non solo questo, aveva fatto il revamp della Coca-Cola, aveva disegnato Bob Dylan in una delle sue copertine più celebri e appunto aveva anche studiato a Bologna con Giorgio Morandi. Ultimamente nel 2009 Barack Obama gli aveva conferito la Medaglia Nazionale delle Arti e tra le sue ultime creazioni non poteva che non esserci la locandina della fortunata serie televisiva Mad Men, che effettivamente, come scrive Santanastro su Art Tribune, chi meglio di Milton Glaser poteva interpretare luci e ombre del mondo pubblicitario degli anni 60. You amaze me, filling up those big shoes, looking at a sky of gray, never wishing it was blue, never wishing it was blue. You amaze me, oh, where do I begin? You say you'll be there, you don't question how or when. You don't question how or when. And once you bit the dust, shooting for the moon, slammed back down to earth, and it hurt more than you knew. But without a doubt, or second guess, in the sea of no, you kept saying yes. You amaze me, when the odds are slim to none, I know we've lost. You say you've already won. You say you've already won. You amaze me. You amaze me. You amaze me. Well, good morning, John Foster. This is Bonnie Diva calling. And I've been wanting to call your hotline. I hope this is the right nail art John Foster hotline, because if it's not, someone's going to get to hear about my shrimp and grits dinner last night. I just wanted to tell you that I'm stuck up here in the northern Illinois wasteland. And last night I had dinner at a restaurant that served New Orleans food, and I was so excited. I walked in and I could smell shrimp frying, and I almost wept for joy. And I had a plate of shrimp and grits, which I don't know if y'all do that in North Carolina. You probably do. It was so good, but I'm recovering from it because I think it had a pound of butter in it. But anyways, it was absolutely magical. And you can see photos of that on Facebook, of me and my plate of grits with shrimp on it. Also, I have nothing else to really talk about except that I really am serious about you coming to meet us this summer in Nag's Head. Now that I have your phone number, you cannot escape me. Well, you have mine now, too. So this is my cell, of course, because, you know, no one has a landline anymore. And somewhere in the beginning of June, I think it's around the 13th, you will be hearing from me. And if you and Missy want to drive, it's kind of a long drive, I know. But, you know, you can sleep on my porch or in your car or, I don't know, you can sleep with my husband. He doesn't snore. I'll sleep with the kids. I don't care. Anyways, I think you guys would be hilarious fun. And anyway, so yeah, so that was my grits story. I also have a crazy mother who sends me the magazine called Garden and Gun. And yes, and there was an article on grits. So if you'd like any more information on where you can buy really overpriced, expensive, gentrified grits, I'm the person to talk to. So I will talk to you later. Feel free to respond or, you know, just send me more of your fabulous mail art. Okay. Take it easy. Bye. Arte contemporanea. Torniamo invece a Bologna, dove Nelumbo, questo spazio gestito da artisti, ha cominciato un nuovo progetto di residenza, naturalmente tenuto conto del distanziamento sociale. Sentiamo. Ciao Stefano, ciao a tutti, sono Zoe e vi parlo da Nelumbo per raccontarvi Rifugio, il nostro nuovo progetto per l'estate 2020. Rifugio è un programma di 10 micro residenze della durata di 72 ore ciascuna che coinvolge 12 artisti attivi nel panorama bolognese. Ciascun artista ha accesso allo spazio della galleria per 3 giorni, durante i quali produce un piccolo lavoro, una piccola ricerca sul tema del rifugio, appunto, e sull'idea della rinuncia come condizione potenzialmente creativa. Al termine di queste 72 ore il lavoro viene impaginato in un ottavo che viene poi inviato la domenica a tutti coloro che decidono di abbonarsi sostenendo Nelumbo. Per abbonarsi infatti è sufficiente fare una donazione da 5 euro in su per sostenere la nostra attività in questi mesi in cui ancora non ci è concesso di riaprire al pubblico. Chiaramente al termine dell'estate tutti gli abbonati avranno un totale di 10 ottavi che messi insieme nell'ordine che preferiscono e nel modo che preferiscono andranno a costituire la pubblicazione digitale Rifugio. Vi ringraziamo e ringraziamo tutti coloro che hanno già iniziato a sostenerci e vi auguriamo e ci auguriamo di rivederci tutti molto presto in Nelumbo per tornare a fare attività in presenza. Ce l'auguriamo anche noi e ringraziamo naturalmente Zoe Paterniani di Nelumbo e anche Guidalina Piselli che ci ha fornito questa informazione e naturalmente invitiamo tutti gli artisti di Nelumbo a raccontarci quello che stanno facendo in questa mini residenza da 72 ore che è abbastanza inusuale e nelle prossime puntate di Coxo Spaziale sentiremo appunto le voci di questi artisti che ci racconteranno cosa significa fare una residenza di 72 ore, chissà se in quelle 72 ore dormono oppure se in quelle 72 ore lavorano e basta, eccetera eccetera. Comunque sostenete Nelumbo, andate su www.nelumbo.it e dove troverete appunto il link per sostenere questa piccola galleria bolognese. Love is on its way out, love is on its way out. Love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out. Love is broken down, it's on its way out. Did you see the headlines? Did you see the grab lines? Did you see the nerve gas? Children crying, did you see the sad rich? Hunting down, shooting down elephants and lions. is on its way out. Love is on its way out. Love is tired and it's on its way out. Love is on its way out. Love is on its way out. Love is broken down. It's on its way out. Did you see the sad rich hunting down, shooting down elephants and lions? Da un autogrill di Teano concludiamo questa puntata di Coxo Spaziale, completamente registrata tra WhatsApp, spiagge eccetera e viaggi. Hai qualcosa, un'ultima cosa da aggiungere prima di concludere questa puntata? Ma non lo so, Pasquini, io ho il sospetto che il rischio che il lavoro di tanti finisca poi nelle mani di pochi ci sia sempre. Secondo me l'unico modo per proteggersi da questo rischio è quello di non lavorare troppo, è l'unica. E dunque leggo Idea di Diana Sani. Idea è la realizzazione di un sogno da trasportare nel quotidiano, da condividere con chi è vicino, da far conoscere a tanti. Occorre rendere le idee facili da attuare e condivisibili con l'aiuto dell'altro. Credo che questi siano gli elementi fondamentali alla loro esistenza e alla loro durata. Mi sembrava che questa idea di Diana Sani c'entrasse qualcosa con autoprogettazione, ma anche e soprattutto con il concetto di non ripetiamo chi, di un'opera d'arte che si autoproduce e si autovende. E poi pensavo che questa storia delle puntate registrate ci offre la possibilità di ascoltare anche noi la trasmissione il lunedì dalle 19 alle 20 quando va in onda. E quindi in questo modo intanto gli ascoltatori passano da 1,73 a 3,73. Se poi facciamo tanto anche di mandare qualche post sui social, aumentano le interazioni e siccome l'algoritmo funziona su base esponenziale, da 1,73 che era passiamo con 3 interazioni, se ci si mette anche GIFO, a ben 15,45, che è un bel saltone, Non so se sono pronto per 15,45 radioascoltatori, forse sono troppi per Coxo Spaziale. Detto questo, come al solito vi lasciamo con le parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Io ero Stefano W. Pasquini, avevamo con noi la nostra salutiamo la nostra Fedra Boscaro che ci ascolta da lontano e questo era Coxo Spaziale. Appuntamento lunedì prossimo sempre dalle ore 19 alle ore 20 sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM. När går du hem? För jag vill vara kvar. Jag går längst fram. Om du står.